Il ricordo di Allah, raccolta di invocazioni e preghiere dal sublime Corano e dalla nobile Sunna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Corano 2:127. O Signor nostro, accetta da noi, in verità tu sei colui che ascolta, colui che tutto sa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Corano 2:201. O Signor nostro, dacci una buona posizione nella vita terrena, una buona posizione nella vita futura, preservandoci dal castigo del fuoco. Rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhta'na. Corano 2:286. O Signor nostro, non punirci se abbiamo peccato per dimenticanza o per errore. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Corano 2:286. O Signor nostro, non imporci un fardello come lo imponesti a coloro prima di noi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Corano 2:286. O Signor nostro, non caricarci di ciò che non siamo in grado di portare, sii indulgente con noi, perdonaci ed abbi di noi misericordia. Tu sei il nostro patrono, perciò dacci il sopravvento su coloro che rifiutano di credere. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Corano 3:8. O Signor nostro, non far deviare i nostri cuori dopo averli guidati, e accordaci da presso te misericordia. In verità tu sei il donatore. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Corano 3:16. O Signor nostro, in verità noi abbiamo creduto, perciò perdonaci i nostri peccati e scampaci dal castigo del fuoco. Rabbana amanna bima anzalt wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash-shahidin. Corano 3:53. O Signor nostro, abbiamo avuto fede in ciò che hai fatto fatto scendere ed abbiamo seguito l'Apostolo, perciò iscrivici con coloro che hanno reso testimonianza. Rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Corano 3:147. O Signor nostro, perdonaci i nostri peccati e i nostri eccessi e dacci il sopravvento su coloro che rifiutano di credere. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka wa qina adhaban nar. Corano 3:191. O Signor nostro, tu non creasti questo universo senza uno scopo, incondivisa è la tua divinità, perciò scampaci dal castigo del fuoco. Rabbana innana sami'na munadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Corano 3:193. O Signor nostro, abbiamo udito uno che chiamava alla fede dicendo: credete nel vostro Signore, e noi abbiamo creduto. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Corano 3:193. O Signor nostro, perdonaci i nostri peccati, cancella le nostre cattive azioni e facci morire come muoiono i pii. Rabbana wa atina ma wa attana ala rusulik wa la tughzina yawm al-qiyama innaka la tukhliful mi'ad. O Signor nostro, dacci ciò che ci hai promesso per mezzo dei tuoi apostoli e non umiliarci nel giorno della resurrezione. In verità tu non vieni meno alla promessa. Corano 3:194. Rabbana amanna faktubna ma'ashahidin. O Signor nostro, abbiamo creduto, perciò iscrivici con coloro che hanno reso testimonianza. Corano 5:83. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Corano 7:23. O Signor nostro, abbiamo fatto torto a noi stessi, se tu non ci perdoni e ci usi misericordia, certamente saremo tra i perdenti. Rabbana la taj'alna ma'al qawmi dh-dhalimin. O Signor nostro, non metterci nel novero dei perversi. Corano 7:47. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Corano 7:89. O Signor nostro, decidi secondo verità tra noi e il nostro popolo. Tu sei il migliore di coloro che decidono. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Corano 7:126. O Signor nostro, rafforzaci quanto pazienza e fa che noi si muoia da musulmani. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'. O Signor nostro, tu in verità conosci ciò che noi teniamo nascosto e ciò che esprimiamo. Però nulla a te sfugge nella terra e nel cielo. Corano 14:38. Rabbana wa tuqabbal du'a'i. O Signor nostro, esaudisci la mia preghiera. Corano 14:40. Rabbana ghafir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Corano 14:41. O Signor nostro, perdona me, i miei due genitori e i credenti nel giorno in cui sarà chiesto il rendiconto. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Corano 18:10. O Signor nostro, accordaci misericordia da parte tua e assicuraci la dirittura della nostra condotta. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Corano 23:109. O Signor nostro, abbiamo avuto fede, perciò perdonaci e usaci misericordia. Tu sei il migliore dei clementi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Corano 25:74. O Signor nostro, fa che le nostre mogli e la nostra discendenza sia per noi fonte di gioia e fa di noi una guida per i timorati. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaika al-masir. Corano 60:4. O Signor nostro, noi facciamo affidamento su te, a te noi ritorniamo e a te è il punto di arrivo. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. O Signor nostro, rendi perfetta la nostra luce e perdonaci. In verità tu sei colui che ha potere su ogni cosa. Corano 66:8. Wa qul Rabbi zidni ilma. Corano 20:114. O Signore, accrescimi quanto scienza.